Quello è baracchino, giustamente, non è K. No, questo è un baracchino, ma questo è una cosa seria. Aspetta che ti mando la foto se ti piace. Sì, c'è un bip particolare. Un bip particolare, credo che stiano facendo prove sul 7, non so. Io stavo finendo di mangiare qua e sono all'ascolto. Eia, e il cellulare dov'è? Mamma mia, aspetta, non l'avrò lasciato in macchina, spero di no. Vado a prenderlo. Oh yeah. Guarda, ti ho mandato una foto, non so se ti piace, guarda un po'. L'altro chi era? Avanti. Io, ciao Marco, buonasera. Vabbè, l'Ubrofè. Ecco il messaggio, adesso lo apro. Ah, Massimiliano. Questo non è un baracchino, considerando il baracchino, questo è il baracchino. Mi pare me l'avevi fatto vedere già. Boh, non me lo ricordo. Ciao, Luca Fetta. Sempre smarmittata stai uscendo, dai. Cosa vuol dire smarmittata? Dai, ecco tutte le cose che in Cagliari fare, dai. Ciao, buonasera, Massimiliano. Ciao, buonasera, Luca Fetta. Ah, questo è il suo per l'ascolto, dai, dalla radio, che è un bel forte. Stavo facendo giusto la prova con il suo microfono Lafayette e Palmare, capito? Kappa, ma adesso lo togliamo che magari disturba questo ecco. Come lo ascolti tu, Lubrefetto? Già lo sai che a me l'ecco non mi piace, comunque già ti ascolto, dai. Vabbè, era giusto una prova che stavo facendo così con Marco, giusto per ascoltare. Ok, va bene, lo tolgo. Dai, molto da 45, dai, già va bene. Ascolta, adesso non c'è più, giusto? Positivo. No, ma questo, attenzione, questo è il suo originale, non è che l'ho messo io, eh? Sì, no, già va bene. Avanti, Marco, cosa ti sembra? Buono, io stavo ascoltando anche ieri, sì, per chiodo. Perdonate, ma... per chiodo avevi aumentato un po', però era... per questa ricezione, per questo baracchino era un po' al limite. Chiodo, vabbè, più lontano magari, ma deve essere anche stretto il ricevitore del 3009, proprio come banda passante, più di tanto poi comincia a strappare. Loro ti sentivano bene ieri notato, qua cominciava a essere già un po' a debordare, in poche parole. Allora tu pensa, Marco, che c'è Giulio nel canale 10, no? Sta modulando lì con K, io manco l'ago, ci vuole nulla, non mi dà fastidio di niente, capito? Niente, proprio zero completamente. Ehi, Massimiliano, una domanda, tu sai che scheda monta quello lì che stai usando adesso? Perché io non ne ho idea, e non ho mai cercato la verità, comunque quello è non plus ultra, credo che sia considerato anche meglio del Magnum base. E anche dei Magni 1x80 forse, boh, voci di corridoio, più affidabile, più tutto. Ma guarda, questo dici? Sì. Hai detto, mi pare che il Romagno si rubò in busciacca. Io, guarda, io ho le 9, Marco, non perché adesso ce l'ho io, però questa radio alle 9, lui, mi va di lo shampoo. Shampoo, barba, capelli, manicure, pedicure, tutto li fa. E quella infatti l'ho vista su forum anche americani e non solo, molto ricercata. C'è uno Smither che è spettacolare, poi a ventaglio, anche bello colorato, luminoso. Sempre. E allora il prefetto, riprendi il prefetto. Mi state dando incarichi. Carichi così un tanto al chilo. Stavo cercando su internet un vecchio microfono Palmare Motorola, quello che usava la polizia, quello praticamente giallo col tasto sulla sinistra, nero. Buio totale, Massimiliano, conosci? No, buio anche io. Guarda, è famosissimo, è un vecchio microfono Palmare vintage della Motorola che usavano anche nella serie, cioè nella serie telefilm Staschiacci, ma è un classico. Non lo so, non ti so dire niente. Eh, ne ho trovato un paio negli Stati Uniti, ma sono veramente messi male, cazzo. Un carraggio, peccato, cazzo. Mi sarebbe piaciuto buscarne uno a poco presto e provarlo. Pensa, io non ti saprei dire quale presto, la schiaccia non lo vedo da 40 anni, credo. Colino collo. Ah, Natalino, come sei colorito. Ai, caro caro, tu sei che mi capisci. Qui Natalino c'ha questa modulazione bella calda, suadente, come dire. Adesso dieci diventa un canale porno. Sì, certe notti ha fatto la battuta a coso, chi era, Tino? Diciamo che siamo in zona rossa, mi doppio senso, riferito Covid e anche in fascia rossa, come era, ha detto una cosa del genere, e anche perché stavamo un po' pornografico, è diventato il canale. Va bene, sto guardando varie foto di quell'apparecchio, sto cercando di capire la scheda. Ecco, c'è la scheda, se è quella, perché spesso non vedi una foto, compare un nome sotto, poi vuoi aprire il sito e non corrisponde la foto al nome, capito? Ehi, ehi, ciao Natalino, buonasera, ben entrato. Ciao, di perfetta. Aspetta Marco, che se riesco ti mando la foto del microfono che ti stavo dicendo. Vabbè, quello che ho trovato è veramente messo male, è un carraggio, però giusto per farti capire di cosa sto parlando. Davvero? E non si può restaurare esteticamente e meccanicamente. Vabbè, questo qua è veramente messo male. Adesso sto cercando su internet se si trova. Vabbè, ci sto cercando qua su eBay, ma mi stanno uscendo altri risultati. Comunque dai, così te lo faccio vedere. Blu. Aspetta. Blu, e qua siamo. Oh, sono Massimiliano. L'elettrodo, ciao Gianni, ho malfetta, mi sono spostato al set a fare una prova con Luca. L'elettrodo da 3,25, che lunghezza c'ha Massimiliano? E quello da 2,25, che differenza c'è di lunghezza? Allora, l'elettrodo da 3,25 non c'ha molta differenza. La grossezza, la lunghezza è uguale. Ma quant'è quella lunghezza? Lo sai, te lo ricordi orientativamente? Ah, adesso non vorrei sbagliare, ma sarà intorno alla 40 centimetri. Gianfra, hai sentito? Sì, sì, 40, un po' pochini, comunque mi ingegno in qualche modo. Ok, grazie, torno al lavoro, ciao. Ok Gianfra, dopo allora vai. Mi ricordavo più o meno 40-50 centimetri, una cosa del genere, è un bel mani che si viveva lì a Cagliari, alla Saras. Chi è entrato qua? Non so se c'è Giulio che era al telefono, poi chi è rientrato? Allora, c'era Gianni Lubrefetta, poi c'è Marco, poi c'è rientrato Gianni Opiorù. Ehi, a Sigli ci sono, ciao Marco e ciao Gianni Lubrefetta. Buonasera. Questo qua è il microfono Lafayette, tipo CTE, dai, per farti capire. Ora, bene sta andando? Bene. Oh già, ma la vuoi riparare quella radio? Ti chiamo? Cosa? La vuoi riparare quella radio? Ti chiamo? Ah no, no, non la riparo. La vendo direttamente, buona notte, se arrangerà chi la compra. Ma non peccato già, guarda che quello che ha fatto la radio a me è onestissimo, è Gianni. Ti dico solo che ci voleva più come soldi di spedizione che di riparazione. L'ha tenuta 10 giorni la radio, Come voglio più. Ah, io non essere così, è quella radio nuova, Gianni. Cosa vai a comprare un'altra radio quando magari con 50 euro la te la fa nuova con la radio? Guarda che è bravo, ed è onestissimo, Questa è nuova, se tu l'apri dentro è lucida, perfetta. Sto dicendo che mi sono meravigliato anch'io, c'è la bombina che è lucida, sembra il cielo dalla fabbrica. E anche questa che c'è io è così, però se c'è un componente che non va è da sostituire, Gianni, perché venderla così? Dammi retta, se cambi idea mandami un WhatsApp, io ti do tutte le informazioni, ti aiuto io a fare il pacco, a spedirla, l'indirizzo ce l'ho io, non c'è problema. Ottimo, allora Giura, tu dimmi se la vuoi riparare e io ti do una mano. Sì, vabbè, posso vedere. Uccidi, io ti sto dando un'informazione molto utile. Questa persona è veramente in gamba, umile, onesta, è veramente troppo bravo, capito? Troppo io, si sguarisce e quella radio ritorna come il giorno che tu l'hai comprata, ne sono più che sicuro, perché fa anche baracchini lui, capito? Quindi non fa solo HF, fa solo anche baracchini. Avanti Massimiliano. No, ascolta, se metto... Ora, l'eco si sente. Massimiliano, sempre quel problema c'è al microfono. Sempre quel problema c'è al microfono. Sì, dalla trariga, dite, un voto non l'hai ancora fatto. Guarda un po', guarda a vedere. Questo qua c'è l'eco così, K. Già si sente l'eco, già si sente. Ok, vai, va bene. Ehi, vabbè, c'è qualche filetto. Toccalo, toccami, capito? Cercano come muovi il capo. Va bene. Cioè, picchi modulazione da 9.5 a 9.25. Un prefetto, avanti. Ehi, buonasera, ciao Claudio. Sì, eravamo qua con Massimiliano, stava facendo i test sul motocarro, dai, per i 45. Ehi, va bene, tolto tutto, è tutto rocce. Avanti Marco. Ehi, vabbè, grugnavo. Non rispondami. Sto cercando la scheda tecnica. Sto trovando di tutto, schema elettrico, però non dice il modello di scheda, vabbè. Di cosa, Marco? Di una cosa che ho visto. Quello che sta usando Massimiliano. Vabbè, c'è il manuale di servizio, magari ne accennerà. Una curiosità era. Guardatelo bene quel manuale, guarda. Leggitelo bene, però ce l'ho truffi. La paura con la radio. Lo so. Sì, quella è. Se li mette in tasca i cosi, S9, il 980, 9, come si chiama, non mi ricordo i modelli. Questo c'è 9. Sono provato io a casa, non so se ho avventato in banda laterale in 10 metri sul parlato, sul fischiato 160 watt, sul parlato 120, 130, 130 watt, sul parlato, vabbè, c'è un bellissimo radio, c'è una ricezione da favola qua radio, veramente, ma quella è la versione da 200 watt, attenzione, non è un giocattolino, è solamente adorare dove uva i radio. C'è di tutto, dai qua, schema elettrico. Allora vediamo se c'è la sigla. Va bene. Un attimino riprendete, dai. Millo. PFM 0090A. Non l'ho mai sentita. È diverso, eh. Ah, c'è quei finali a croce, no? Quella specie di MRF, cosa sono? Ma Massimiliano fa le domande, io l'ho provato, non lo ricordo più. Sono siglati, ma sigle che non conosco sono. Vabbè. Ok. Dai, riprendete. Avanti Gianni, dai, ripeti tu, Gianni doppio rum, poi fai girare per Gianni Profeta. Io facciamo qualche dialogo, un po' di ruota, poi rilanciate per Giulio, vediamo se è rientrato. Cala gaba, dai. E adesso sono con il Cobra, sto uscendo col Cobra. Non so come mi stai ascoltando, ma forse sta fischiando perché c'è. E mi parla sotto troppo alto. Aspetta. Come basso. Così va bene, andare così almeno una volta l'estate. Così va bene, Claudio. Sì, ma hai abbassato il Mickey Gino, non parla solo. Oh, hai ragione, Mickey Gino è abbassato, sì. Ecco qua, già va bene. Ottimo, perfetto, alla grande. Beh, ragazzi, mi sa che io vado a cucinare, se no devo fare un po' di pollame, stanotte ci vola. Raso terra? Allora, raso terra, allora. Tipo Padulo? Sì, ebbè, poi col Follentino mi ballo anche un valzer. Dai signori, io vi saluto a tutti, buona serata, buona continuazione di radio, un bacio, un abbraccio a tutti, ciao! Ciao, sì, buona serata! Ti ho mandato la foto del microfono che ti stavo dicendo. Sì, l'ho visto, è bello preservativo questa cosa. Ciao Massimi, un abbraccio a più tardi, vai Coso, vai Marco. Buona serata. Più, si pari una mandria di Marraggi che gira, cosa ci avete? Dai, su con la vita, dai. Io mi sto addormentando, lo sai, mi sta capitando ogni sera, cioè mi metto il volume bassino, sto seduto sdraiato qua sul divano, troppo volume basso basso e mi sto addormentando di brutto. Mamma, come passa per andare in cucina, mi trova tramortito sul divano. Ogni tanto controlla se sono vivo anche. Marco, hai visto il microfono che ti ho detto? Sì, mi ricorda qualcosa. Certo, oddio, non mi fa impazzire, però a chi piace. Quindi tu hai la versione che ti hanno proposto, il secondo, molto grigio, molto No, quello di sotto è più vecchio, quello di sopra addirittura è nuovo, lo vendono già imbustato, pronto da piazzare, vabbè, c'è da cambiare le connessioni. Però esteticamente è come il vecchio, quello che... Aspetta, ti mando un'altra foto di un garage che ho trovato. È sempre lo stesso microfono. Però vabbè, in condizioni pietose. Comunque è quello, dai, è sempre quello. Cappa di Rogero, cappa di Rogero. Dai, va bene così. Che si è fatta? Le 7:30 sono già. Allora faccio il carbonato. Doppio, riprendi. Pensaci stanotte, poi chiamami. Gianni, io ti direi di ripararla. Cioè, a dare quella non... Poi non si trovano così facilmente, cominceranno a sparire, a invecchiare, capito? Meglio allora che te ne prendi una magari come pezzi di ricambio, semi buona, come dire, capito? Però quella tienitela, te la metti a puntino. Tanto se la persona è brava e preparata ne vale la pena, no Claudio? Perché c'è un laboratorio, non l'ha fatto conoscere Luca. Gli ho mandato il 140 che ho comprato usato, che non mi piaceva come riceveva, ma è una favola, veramente, è tornato perfetto, nuovo, tutto allineato sugli attenti, capito, fatti male anche lui, tieni te racconto questa radiolina perché veramente funziona molto molto bene. È nuova, non ha un graffio, neanche gli sliders, è nuova perché era di uno che non la usava, capito? Non aveva manco decimale, la usava come ricevitore, quindi so che, non so cosa è successo, comunque è andata fuori allineamento, ma me l'ha fatta perfetta. Poi questo fa anche baracchini, capito? Modifica baracchini, li fa colte, quindi è molto preparato nei baracchini. Il Galaxy li conosce, quindi con poca spesa con la radio torna nuova, è sua e torna come il giorno che lui l'ha usata, capito? Così le fa una bella revisione, vuole spendere 50 euro, ok, più un trasporto, e beh, cosa ha speso? Non ha speso niente, ma c'è una radio apposta. Comunque, Gianni deciderà se vuole. Io una mano gliela do per la spedizione, per tutto, c'è un indirizzo, c'è tutto, lo chiamo prima e spieghiamo qual è il problema. Io gli do un piede. Sì, io gli ho dato più di un piede. E intanto Giorgio mi ha detto Ciamani, buona Claudio con la tua vita, esce e mi dato due regali. E poi sono anche ricoverato. Cazzo, glielo ho detto anche io, ma i tuoi hanno ricoverato perché ti hai bevuto tutta la camicia che ti ho fatto io. No Claudio, magari fosse per quello, magari quello passa subito, ho avuto dei calcoli e quindi sono dovuto andare per forza per farmeli frantumare perché non ce la facevo più dai dolori, capito? Povaraccio, più va la cervicale, quando arriva nella cervicale si arradduca e anda a coccarsi. Guarda, allucinante, era giovane, cazzo, è giovane, minchia, doppio rum al telefono, l'Ubrefe. Eia, abbiamo analizzato, dai. La notte porta consiglio, già sicuramente ci penserà bene, dai. Quindi aspettiamo la notte cosa, che consigli gli dà. Io sono del parere, per andare a comprare altre radio mi voglio riparare liscia, assolutamente. Io potevo fare la stessa cosa, capito? Però ho fatto così, l'ho fatto riparare e adesso l'ho venduta perché me l'hanno chiesta subito. Così è quella lì, quella radio lì è fenomenale, nuova perché la conosco. Ci spendi due soldini, la fai rimettere tutto in ordine, a posto, da un tecnico di laboratorio, dopo che ti misura tutto quello che c'è da misurare, poi la restituisce che tu fai la radio nuova, cosa devi spendere subito? Bah. Cappa a cappa, poi Gianni, lui il padrone, lui che... I soldi deve spendere lui, quindi è libero di fare quello che vuoi. Il mio consiglio è fare come lo sto facendo io. Se decide, mi chiama, una mano gliela do io, non c'è problema. si sferisce, si chiama prima, si sferisce il problema, si sferisce e vedi con la voglia torna come il giorno che è uscita, sono più che sicuro. Bene, Meda, ma Marco si è dileguato? No, sono qua, mi sta scoppiando la vescica, quindi adesso vado in bagno. Sì, già, l'ho visto quel Mike, c'ha quello spinotto assurdo che non ho mai visto, con due alette di bloccaggio ai lati, non le vecchie aree, che li premi e lo sfili. Sì, basta cablarlo, però, oddio, non è nemmeno questa gran bellezza come Mike. Poi, oh, se ti piace, trovo la prezzo accettabile, possibilmente che non sia da un carraggio, come ho detto prima. Bene, io vado in bagno, riprendete pure. C'era anche forse Natalino, chi altri c'era? Non mi ricordo. Vai Claudio, vai. Non so, io ho fatto l'appello dopo fa, Natalino ho salutato, non so che stava facendo. Giulio mi pare che fosse al telefono, così Giulio. Chiama Rogero! E a me cosa ha deciso poi? Sì. Già. Nulla, ci devo pensare. Se vedela così o metto la cosa. Se no, perché non sei. Magari una cazzata, però una cazzata che magari non tecnico che esce di gabba si calla, qualche cosa in perdita, e poi il prezzo sale purtroppo. Lì la stessa cosa l'altra volta, il modulatore, sicuramente. È una fesseria. La salvedere già va bene. Ma era riferito al fischio il difetto o ad altro? No, non esce bene di radio, capito? Quindi anche col microfono normale la stessa cosa, può essere qualche cosa, io non me ne intendo, l'unica cosa non comprende proprio queste rotture di scatole che ci sono, questi baracchini, non lo so, bisogna farla vedere a chi se ne intende, non lo so. Va bene, sì, vado in bagno. Luca riprendi. Occhio alla manichetta, Marco, K. Sai, non avevo di gana oggi, va a rubare. Adesso ti lo so, 8.25. Adesso io vi saluto, rubando il tembai, mi preparo e vado a farmi un girettino col cane. Ok? Se ci siete, ci sentiamo dopo. E se no, prendete merengoma le vostre mani. Ciao Claudio, buona passeggiata. Pensami Gianni, lo sai, ti voglio bene, pensami. Vedrai che non te ne pensi, pensami. Ascolta quello che ti ho detto. Che già faccio tutto io, tu non ti preoccupare. Te lo imballo, te lo sferisco, te lo seguo io, tu non ti preoccupare. Ah, vabbè, no. Ora mi ho preso la decisione. Già. Dai, fa bravo, decisione. Quante decisioni prendo io, mi prendo in giro, cazzo, io. È una bella radio quella, già lascia perdere, non la trovi così come quella. Quindi dai retta a me. Beh, nuovissima, non è manco graffiata, niente. Ma a prescindere, un graffio si può anche fare, si graffiano le macchine, non è un problema, si dovrà raneggiare. Ma quando la radio è ottima all'interno, che è buona, che tutta la componentistica è sana, bisogna ripararla, già, lascia perdere. Cosa vuol dire? Io molte volte ho fatto così, no, qui, bomba, io 75 me ne sono pentito da quello là, capite? Perché ora non voglio proprio nulla, ho venduto una miseria perché voleva cambiare il display, invece poi ho scoperto che il display costava 120 euro, se avessi conosciuto a Vittorio prima, a questo che c'è laboratorio in continente, l'avrei mandata da lui, con 120 euro avrei riparato la radio e me l'avrei tenuta. Sono errori purtroppo che si fanno, ma sono pentito veramente, perché quella radio era veramente nuova, la vetrina funzionante al 100%, c'era solo queste righine dei display, era da sostituire, però quello voleva 250 euro, quell'altro ne voleva 230, quell'altro ne voleva 300, la CSO, mi ha detto ma più di via in culo, e me l'ho venduta così, se avessi conosciuto questo tecnico prima, stai tranquillo che non l'avrei venduta con la radio. Vabbè dai, tenete duro e mettete da parte il pane duro, ok? Dai, caffè, ti rilancio il cambio, ti lascio in compagnia di Gianni e Luca e io mi preparo per uscire col cane. A dopo, ciao. Bene, Meda, mi sa che sta prestacco anch'io, dai. Ciao Luca, buonasera. Stacco anch'io e vado a prepararmi qualcosa. cosa da mettere sotto i denti. Dai, buona serata, nel caso ci si aggiorna più tardi. Ciao ciao. Ciao ciao. Hai chiuso la linea, hai chiuso. Non stavi uscendo di radio. Però stavo uscendo di radio. Kappa dai dai. Luca Perivella. Attento Luca Perivella. Vai, dice Andene. Sì, dove va come il giorno? No, ce l'avevo agganciata a Rosmetro. Oh, cla. Agganciata a Rosmetro, cosa? Perché chita? Ehi, questo coso qua, là, ce l'ho agganciata nel Rosmetro. Kappa, kappa, positivo, dai, dai. Allora, Filippo, l'ho fatto. Vieni, Filippo, no, no. Positivo, dai, dai, kappa, kappa, dai, dai. Claro, dammi due secondi che mi metto tutto in ordine qua, l'ho sganciato cavi e cavettini, giusto? Per vedere il funzionamento, là c'era tutto in ordine, tutto a posto. Tutto in ordine, la grande, 9:20, quindi positivi la paura e radio super 5. Aia, cappa, dai, due secondi di solo, ecco. Vai, vai. Sì, che si vuole uomo, lo sai io perché ho messo quel gatto alle 3. Ah, io mi sono alzato verso le 4, così, è passato un giorno. Io mi sono coricato alle 3, mi sono alzato alle 9. 9:09, sono uscito, sono andato alla Cisa, sono bevuto qualcosa, sono tornato, ho portato il cane e poi sono buttato lì a casa, buttato lì a casa. Piano piano, come ce l'ha piazzato, beh. Andiamo, 19, no Massimiliano, arriva ancora più forte. Ah, non esagerare. Ascolta, ma ciao Lu. Ascolta, e con quanti watt stai entrando dentro? Adesso vanno lontani, una decina, neanche meno di 10. Poi abbassano un altro pelino, va, perché sei quasi al limite. Aspetta. Bene, va così. Così almeno il piacco di fava che andava. Ma lui c'ha tutta la sua funzionalità. Questo una persona lo conosce, M747. Che andendo già. Via, andava avanti lui. Va bene, sì. Ah, ma non sta arrivando alla veloce, 9.50, no? Sì. E già va bene. Avanti, Zocca. No, già va bene, ha voglia. Cappa cappa. Bene, mi ascolti tu. Eia. Va bene, ok. Vabbè, appena acceso anche questo, Non fa niente a quello anche appena acceso. E dice che vogliamo fare un buco. Sì, è un bel forte qua, quella lì, va bene, sì. Va benissimo, avanti, bombolo. Va alla grande, va. Va alla grande, non c'è nessun problema. Antonio, 9.22 con picchi a 25, la mappa viene in varia. Lo vedi quando la tensione dell'alimentatore è giusta? Funziona bene. Sta spingendo bene, la verità. Perché capo, mi pareva anche cosa che non mi piaceva, un qualcosa non mi piaceva. Ho controllato e era quello lì. Ha giubilato lo Besser, mi da giù su, ed è pronto, che il suo alimentatore. Davvero? Già lo sai. Già lo sai, è la cisa. E beh, Flippo, è bucato bene questo circuitino. No, quello l'ho abbandonato per adesso. No, sto togliendo il frontalino perché o li risolvo i fili a jack, o li metto un connettore a 4. Arriva, ti prendo un basso fermo a 4, fa il lavoro fatto bene, fa il connessione Alan 48, Midland me, che è più facile, anche se compri un microfono nuovo, voi comprate due microfoni nuovi, due nel MP5, c'hanno la connessione Midland, non la giù giambato, nuba, ha giù biliardo, l'ha già attaccato, boh, stanno funzionando. Ma giusto perché non c'è il microfono suo, capito? Così chi lo prende c'ha l'attacco a 4. Infatti te lo sto dicendo, per fare il cambio, maschio e femmina, esci orgoglio, esci tranquillo, avanti Massimino. Cappa, ma anche io ce li ho tutti così, ce li ho tutti, attacco Midland, sì, no, aggiusta questa ispezione, beh, invece tutto attacco Midland, tranne, vabbè, il serpente che quello è. È come il Galaxy e quindi quello rimane così originale, però il resto è tutto aggancio Midland. Si conforma, è così este. Giusto che di giusto. Kappa già Trugas, avanti bomboli. Kappa, Gianna. Un ghiccio, gare ghiccio. Attacco Midland, pure io un periodo ci avevo, io sono non so cosa è, c'avevo un apparecchio che c'aveva, cioè più apparecchi prima, e c'avevo un attacco Midland, erano fatti così, erano fatti. Sì, è meglio, perché allora in genere l'attacco Midland è standard, capito, più o meno, tranne vabbè Galaxy e roba del genere. I fili di sotto vanno sopra, quelli di sotto vanno sopra, tutto lì, non è che devi cambiare di salosa, però dico questa radio così, ma in genere tutte le radio più o meno hanno quasi tutto Midland. Avrei voluto provare una cosa, Babbo G, già ce l'ha, solo che cruccia un bel. Il Dual Nike, attaccarlo, a metà apparecchio, vedi come ti sia. Ma cosa devo fare su Dual Nike? Cazzardi. Un microfono a 120 euro, lascia più lì. Avanti, flipper. Ripeto, voi Massimiliano, sto ritardo e faccio. Ah, ok, va bene, avanti, capo di moglie. Poi io. Ma lavori domani? Allora, non lavoro. Ma vado a fare un mese e mezzo a casa, ti basta? E quando è che ci libero? Venerdì, no, sabato. Domani, venerdì, domani lavoro, sabato. Ma sabato mattina... Ma credo di sì, infatti ho messo anche pioggia, boh, vediamo, penso di sì, non uso Google, ma il 90% potrebbe essere libero. Vabbè, adesso che andiamo con la liga, così ti scendo quella roba lì, l'altro non te lo scendo, capisci a me? Io lo sto mirando uno fatto, va. Dici quello che vuoi dire. Ok. Altro non morire, sgancia, che non è il problema. Dove sei sceso giù, Antonio? Sì, sì, ti mando un fatto, dai. Fatto quello là, cioè... Va bene, dopo ti mando un fatto, dai. KK, va bene. E intanto sono andato a Matteo, dovrei essere libero. Perché? Perché dovrei avere anche la macchina, ma ci prendiamo un caffettino a qualche parte. Evito di poi salire tu, capito, a destra a sinistra. Capito? Dai, poi io ti mando un fatto. Cosa hai detto, Massimiliano? L'ho detto a sganciare, che non c'è problema, non c'è bisogno di avanzare. Sgancia. Cappa, Rubendi, così, aspetta un attimo. Ma parrogelo, positivo, dai, dai. Hola! No, va bene, va bene, sei 9.15 adesso, prima le 9.10 fa 4. Adesso sei 9.15 sganciato, 9.22 compiti positivi a 25. Ecco, ottimo segnale, veramente, ottimo, complimenti. KK, è così, già dovrebbe andare bene, da. Tu non muore una 50 di chili, vi faccio auguro a tutti, Una proposta, no? Oh, ti faccio auguro a tutti, però non è che a me non mi piace. Oh. Cosa vai, più auguri fa, la vaglio? Allora, ma io faccio auguro a Antonio, no, sarà, no. Ma io, a me non mi piace un gurdoglio. Vabbè, però, ma ci vediamo. Scusa, faccio a tutti, a me, faccio mi fare Santa Base. Cappa. Io già ce l'ho la mia donna, quindi già non c'è problema. Ci metto la donna, cosa metto la donna? Siamo parlando di radio. Ma ci vediamo, ti ho detto che si mette una buona antenna lì, ma è fastidio a bella gente. E io ho detto, tranne che a me, perché io sono lontano, non mi tocca a me. Cappa. Eppure io ho una convinzione, cioè che sono io un po' testa di focare di guaccio, cioè io ho una convinzione, questa io ce la porto a 5 metri di altezza solo, e poi vediamo la differenza. Credo anche Massimiliano di portarla più su, altro bisogna qualificare meglio e fare magari qualche lavoro di accoggimento, a mettere qualche tirantino, ma che se no la raffica di vento che stanno facendo, che hanno fatto un sacco di danno a cose molto più pesanti di quella, l'antenna ragazza la Ginara, ma non è Massimiliano. Sì, vabbè, però diciamo che lui è già anche in una zona un po' coperta, capito? Non è che tocca tutto il strumento di due. Allora si può vedere, tanto se ha bisogno della mano, si vede, quello che si può fare si fa. Capito? Può uscire qualche pacchetto in più. Cappa, la colpa è un po' mia, che io non la voglio salire perché cioè, per me se prende meno vento è meglio, perché ce l'ho a 2 metri dal tetto, ce l'ho. Più o meno, dai, devo salire su infatti per... se io la metto già a 5 metri, già cambia la musica, fidati. O al centro tetto, già cambia la musica. Ma io sinceramente anche non l'avevo educato alla come te. Arrivi da tutte le parti, va bene. Vedi tu. Non rimane così. È più tranquilla, non hai tiranti, non hai niente, va bene, mica arrivi bene, mica. Non vuoi andare. Sei in capo al mondo, arrivi. Appunto, a me mi batta così. Vai zitta, vai zitta. Ma te è qua, eh? Già il baffi sta leccando. Vedrai che l'antenna rimane di ombra e poi mi dirai, là, avevi ragione. Guarda, siccome so già che sono effettivi, minimo ci sale quasi a 9.30 da te. Se fai quello che ti dicono, sì, se no puoi fare 9.30 meno, capito? Perché quelle sono cose che non si gioca, capito? Tu segui le direttive che ti danno e vedrai che non ti trovi male. K, aggiungiamo mezzo compreso come ti funziona. Dato la figata ma Massimiliano anche. Quindi, io non è che me ne intenda molto, ma lui te la figata. E ti segui le direttive che ti ha detto lui e tu vedrai che stai benissimo alla grande, senza problemi. Capo, io sono convinto che smatte di brutto, sono convintissimo. Tu raccomando l'antenna, mi puoi? Per potente lo sai come sono, no? Non è che ci vuole... Io guarda, sono con 20 watt, 50, 20 watt e 60 modulati. Capo. Di 14, 15, 20 in più. La matta che ti è guardia. E perché non sta andando bene questa qui? Schifo ti fa. Sì, vabbè. È certo che sta andando bene. Allora, io ce l'ho 10 watt. Cosa di giamba si va a 20 watt, non ti giamba ruta. A 10 watt così, a tu. E va bene, perfetto. E ce l'ho per i maiali. Già ho visto già, non ti preoccupare. Va bene, Luca, ancora con saldando sai. E Luca lo faccio i pallelli. La salva. Va bene, va. Ah, già c'è l'altro, hai? No. Ancora no. Assolutamente. Sicuramente faccio una nuova, non un quarto, non lo so. Appena pronto mi chiameranno. Cosa Oca? Cosa stai usando? Solito 44. E non vuoi vedere un bicchiere 25, sì. Sono 10 watt importanti, tu la usai. Come funziona? Ma infatti. Ma infatti la bella è con le radio è che hanno questo pregio. Possono avere anche 1000 difetti, ma hanno questo pregio di usare potenza bassa e vabbè. Sono 20 watt, non a 10, 20, 50, 60 modulati. Sì, va benissimo, avanti, bombola. Chiappa, poi che ascolto il tuo messaggio. Positivo, saluto anche a quello che mi ha mandato il messaggio. E fondo la voce di Rubero. Magari che tu bippi di oro. Chi è con questo bip? Tu sì. No, no. Io so. Oi, ciao, vabbè, buonasera, un profeta. Sei confuso. Ciao, Mascalzoni. Ciao, già, allora tu ti sei confuso. No, ero profeta. No, si chiama Luca, prefetta, con la E, prefetta. Che piaffa. Aspetta, si chiama Luca Profeta, tu, loro profeta. La caro di anche tu. Gianni Lubrefetta, buonasera, ben ascoltato. Perché è brutto questo bip? No, a posto, sembra il bip di Giovanni Napoli che non è caduto la cara. Diglielo Massimiliano, diglielo questo microfono da dove viene, diglielo. lo so, ma oggi cos'è, giovedì o venerdì? Giovedì. Comunque, ho già, funziona benissimo quel microfono, ma è un coso, tipo una cosa da lampante, invece fa una radio spettacolare. E un microfono del genere vi dà via a me. A vedere il meteo, c'è allucinante, domani c'è 17 gradi ragazzi, la massima, la minima 9, sabato, domenica e lunedì pioggia, cioè allucinante. Ma schifo ti fa. Dico no, per uno che sta tutta la settimana a casa e aspetta sabato e domenica usci e pioggia. Ma va bene, io poi sci che siamo arancioni. No, poi sci in arancione, in luglio che non puoi sci, fino alle 10 di sera tu puoi andare dove ti pare ti piace, capito? Quindi, a prescindere che i bar e i ristoranti sono sempre chiusi, però noi siamo tranquilli. Ma in Diandi, dimmi in Diandi. Ha fatto una passeggiata, ha fatto allora. Ma se sta più bello facendo una baidame, ha messo Peppino la pugliata della ringhiera. E cosa vuoi ti dire? Vai, un baffè. Quindi questo microfono va molto bene, ma seria? Sì, va benissimo. Allora, intanto andava bene anche in quella radio che avevi prima, quella di su Catamarano, qualche bimba. Andava bene già lì, ma su questa è favolosa, una bella modulazione. Su Catamarano. E lo devo mettere a posto. Devo trovare la maniera per sistemarlo, dai, ci sono affezionato. Io lo troverò subito. Buona cosa, durante. Adesso, è proprio sei drastico. Beh, dipende, lo sei bruciato, gatto, gatto, è iscritto a volte di giamma, io sono antiquario. Vabbè. La risoluzione del video è bassa perché c'è la poca luce, dai, comunque già si capisce, dai. Poi dopo me lo guardo, mi ha fatto giusto uno sguardino così al volo, va. Avanti, bombolo. Eia, ti ha mandato un messaggio e mi deve rispondere, mi deve... Cavolo, perché ho un dubbio. Ma chi l'hai mandato? A me o a Massimiliano? Oh, Massimiliano. Tanto rispondi, tanto rispondi. Rai 2 la partita è Napoli Spezia, vediamo se va il suo Napoli, oh. Avanti Gianni Obertè. A pigliarla in dove? Uia. Vabbè dai, cosa volevo dire? Avanami non mezzo. Vabbè dai. No, stavo dicendo che il video è sgranato perché c'è la poca luce. Beh, ho detto, non so se mi hai capito già, che non l'ho neanche guardato, dopo me lo controllo bene, che stavo facendo altro, capito? Dopo me lo guardo. Il suo microfono già esce una bomba, esce. Te lo posso assicurare io. Va bene, anche tu. Va benissimo. Ho sentito la registrazione che me l'aveva fatto Marco, esce bene, dai, sono contento. Esce un po' bene quel microfono, è bello, bravo, molto bella. E quella come un punto, è proprio bella, bella, veramente bella. E già, cos'è che c'aveva il problema di quella radio, gracchiafa, così è? A cosa ti stai riferendo, Massimiliano? La radio, quella che stai usando. Ma è il Jopix? Sì, cos'è che aveva? Qualche problema? No, sto sbagliando questo bu. No, è a posto. Funziona perfettamente, Massimiliano. Non ha niente la radio. Però bisogna operarlo, Per esempio, quando mi arrivi c'è il cacciavite in plastica. Il tuo asus a vento. Però se ci vuole il consenso, Massimiliano, già lo sai. Cosa avevo? Sì, porta anche il cacciavite, ma se non ce l'hai. Dai, che va bene così. Vuoi che scrivi, Gianni? No, troppo burrutosa, non mi piace. Usati Carrera, che sul microfono. Dimmi a tu. Lo sai di chi era? Boh, negativo, dimmi. Come io era? Ma questo che c'ho io? E allora? Ah boh, Massimiliano non mi ha detto la provenienza, quindi boh, cosa risolgo? Ah, sono contento che ce l'hai tu. Bene, adesso sappiamo qualcosa in più, dai. Adesso abbiamo una certificazione ancora più specifica, dai, avanti qua. Sì, vabbè. sì, no, no, sta andando alla grande. Sì, a voglia. Ma ti ripeto già, se col consenso, ma con bella bocca, non è bruttosa, non è se bruttosa, allora, non ti preoccupare. Vabbè dai, parliamo un altro momento. Oh già, tu la difficile abbordante si mi ha dato da dove vi ho attaccato, se avrai. Lievitazione, così è. Da dove arrivi già, ne ho profetta a te? A me, uno è più forte di te. Vai. Vabbè, e noi sono con i vatti della radio, eh. Eppure io sono con i vatti della radio, non intendi? Allora tu mi arrivi 7:30 a picchi di 8:30 più o meno, vai già. Vabbè, più o meno il solito segnale, giusto? Io sono con circa, 8 fatte, dai. 9:05 a picchi di quasi 15. Io sono con 30 voci, mi onghi. Andi vuoi andare? Lui è aperto a confronto a me. Beh sì, da quel punto di vista sì, dai. Vabbè, già ce n'è per i maialini, dai, per quanto mi riguarda. Sì, lo strumento mi dà 8, dai. La boomerang, già va, già mala sorte. Quindi Massimiliano, i picchi sono positivi? Sì, ho già, i picchi positivi, sì. Mi bella! Mi domi? Ragazzi, io mi assento che sono giù, vai a mangiare qualcosa, se no sono più pagato la sera alla radio e manco bagno, va. Magari se ci siete, ma non penso che riaccendo dopo, magari così un passaggio veloce e niente, va. Non lo so se ci siete, se no vi saluto a tutti quanti, un abbraccio e ci sentiamo alle prossime. Ciao, io mi stacco, ciao. Ehi Massimiliano, senti un attimo il telefono. Ciao Massimiliano, vai, ci aggiorniamo, io ti ho già mandato un WhatsApp. Ciao Bolivella. Ciao Massimiliano. Si conferma. Si conferma. Guardate bene tutte e due, c'è una leve differenza di segnale, ma pochissima tra te e Gianni, arrivate bene. Vabbè Luca, per il vela. Ma ti vorrei, ma il pesce, guarda, noi vediamo qua che sono. Tu non ho fame io. Capa. Ehi, fame. E oggi già mangiato, oggi ho fatto la pasta carbonara. No, io ce l'ho cinghiato in agroroccia stanotte, aspettatino, me l'hanno regalato, fatto, sono già al bagno da ieri. C'ho cinghiale in agroroccia stanottino, un po' di salata, mi chiede il vino e felicità. Un figurone. Giappa, mi chiami tocca il DB, mi tocca. Detto così. Ma nessuno mi tocca il DB, Forse Natalino me lo tocca, ma... vabbè, sei lì alla stazione, ecco già, cioè, è logico che... E siamo vicini, si vede le antenne. Io non te ne tocco, ho fatto toccare a Gianni. Non so io che ci goci. Si allungò il braccio dalla finestra, quasi. Sì, beh, è come tra me e Antonello e Roberto. Chiaro che non c'è neanche, siamo attaccati, bel futuro. Antonio, l'hai vista la mia antenna? Sì. Antonio. Dimmi. L'hai vista la mia antenna al bacino? Sì. Sì, ho visto tutto. L'hai riaggiustata? Eia. No, era giusto per capire se avevi inquadrato la zona, dai. Lo so quindi sia. Bene. So perfettamente dove abiti. Uia. Luca ha bussato però non è entrato. Capa. Comunque già l'ho vista. Ma che tipo ce l'ha accusata questa antenna? Aspetta che mi stanno telefonando. Lei, due volte gli ho messo mano. Per via del vento, dai. Ma adesso è solida. Gli ho fatto una bella modifica e penso che non si rompa più lì, dai. Sono qua, appena posso voglio metterci un palo appena più lungo, voglio buscare almeno un palo di 4 metri, così la tiro su di un paio di metri, ma già così già va bene, dai, però un cc in più già non guasta. Tutti spariti? No, stavamo controllando motocap. Ah, ok. Diciamo che noi facciamo la vita con te, con motocap, fare, ce l'avrà fatto a tagliarmi i ribelli con la presa. Già, già per attenti con la motocap, è un po' pericoloso. Mamma mia, non me ne va a pesare. C'è qualcosa con la terra, non vedi? Tutta la dice, bibi, e fotografie, filmini. E già come stai, dove sei, con chi sei, sei per sei. Ah. Vabbè, mi è venuta in mente la moto zappa vera. Sì, io stavo, no. Io c'era un periodo, l'azienda, no, perché tutti ci lamentavano, c'erano molti giardinetti, anche bellini, con... molto bellini, ben curati negli impianti eccetera, non sia di potabilizzazione che di depurazione, ma non la ciaccia, già zingari, ci basta via canica, fa diventare di begoli con i grappi per tagliare l'erba, capito? No, davvero io, erano ben curati gli giardini. Sono lì, tempesta al dirigente, mi ha detto, Claudio, ma cosa ne pensi se all'agricola c'è Sareggio, ordiniamo due motozappe, ho detto, io non ne do ai ragazzi, a sua, si prende lei la responsabilità, io non me ne prendo la responsabilità di seguire i ragazzi con questa motozappa, è meglio che usino, continuino a usare il decesfusatore, e quando necessita, chiamiamo e facciamo passare il trattorino. Quasi c'ha ragione, sono troppo pazzi, ah no? Io per lavoro, quando lavoravo per il comune, l'ho usata alcune volte. Una volta, l'ultima volta a casa mi è entrata la retromarcia, non so per quale motivo, forse mi sono distratto io, a casa ho mollato la frizione, è una bestia, era grossissima, figurati, perché scendere dal camioncino dovevamo scenderla in due persone, cazzo, era bizzante. Come è mollata la frizione mi è tornata in arredo e ho fatto in tempo a saltare, boh, dal giorno non ha più trattato nulla di un genere. No, già, ma io lo stesso la temo, poi i ragazzi ce n'erano con la testa sotto al collo, ma ce n'erano a fare paura, era uno che tagliava l'erba, tagliando l'erba e badendi, sollevava il decesfugatore, lo girava e diceva, infatti un giorno mi ha anche ripreso, l'altro giorno se facessi il decesfugatore ti faccio un bravo, dai, almeno posso più in fretta al tempo, sì, fai le cose fatte con un gabbo che ti puoi fare male, figurati se muore in mano la motozappa. Troia, no, è un macchinario molto pericoloso, bisogna stare molto molto attenti, però io ho avuto quell'esperienza lì e mi è bastata, dopodiché se devo zappare zappa a mano. No, io sinceramente non la so accusare, già, assolutamente, l'ho vista come si usa, però no, infatti la volta mio dirigente ha detto, lasci perdere che io non devo diventare fatto o si fa male qualcuno qua davvero, no? C'hanno la testa, devo vedere che sono sempre in fretta, di cosa, andando, tornando, qui ci vuole testa, bisogna fare le cose fatte bene, stare attenti, capito? Con le piccoline, uno mi ha detto, perché non fai comprare quella che mi siedo? Raggio detto, qui ci ti trovo, è andato da Torino. No, questa era una due tempi, cos'era, una Brumital, comprata nuova. Ho detto, bisognava scendere la camioncina in due, cazzo, anche quando la mettevi in moto dovevi stare attento, perché cazzo, come ti dava il rinculo, cazzo, ti strappava la corda e dovevi stare attento, era, cazzo, c'era una compressione allucinante e faceva